Scusa. Bene, continuiamo con l'ascolto dei Ratos de Porão dal loro album datato 1984 preciso mudar o sistema policial do que já estamos cansados. E arrestau, arrestau, arrestau, arrestau, arrestau, arrestau, arrestau. Un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Zeddings Magnetics anche da questa parte del vetro. Vado solo a interrompere questa raffica dei Ratos de Porão per presentarvi, anticiparvi così gli argomenti che andremo a sviscerare stasera. Cercheremo insomma di proporvi come da scaletta, appunto, in due parti più degli aggiornamenti, quindi tre parti, ma due grosse parti: la guerra moderna, una morte senza resti. Ecco, questo era un intervento dove coglieremo l'occasione, per così dire, del ricorrenza del 4 novembre, ricorrenza appunto della fine della Grande Guerra, per così parlare e ragionare un po' su quello che è stato appunto quel grande massacro. E invece il secondo blocco è un approfondimento su un autore di cui abbiamo così velocemente parlato già in precedenza in altre puntate, in una puntata un bel po' di tempo fa, ed è Bassel Al-Arai, un attivista e scrittore palestinese. Era nato nel 1984 ed è stato ucciso nel 2017, che è, insomma, affronta la questione della resistenza da un punto di vista del diciamo nazionalismo arabo, ecco, che è un modo di dire che cercheremo di provare ad affrontare con questo suo scritto, che si intitola, non l'ho detto, Uscire dalla legge, entrare nella rivoluzione. E la linea va di nuovo dall'altra parte del vetro. Eccoci qua, allora, andiamo ad affrontare questo che dicevo prima, primo blocco, e partiamo con una citazione. Erodoto narra che nella gola delle Termopili, là dove le schiere comandate da Leonida furono annientate al termine della loro utile azione ritardante, accanto alle iscrizioni che ricordavano la battaglia senza speranza di 4.000 uomini venuti dal Peloponneso, o la morte dei 300 che fanno dire a Sparta che essi giacciono qui docili ai suoi ordini, l'indovino Megistia è onorato con un epitaffio particolare. Indovino sapeva chiaramente che la morte si avvicinava, ma non volle abbandonare i capi di Sparta. Non è necessario essere indovini per sapere che non esiste posizione tanto forte da non poter essere aggirata da forze molto superiori. Può venire anche sommersa da un attacco frontale. Ma è bene essere indifferenti a questo genere di conoscenze, in certi casi. Il mondo della guerra presenta almeno questo vantaggio di non lasciare spazio alle insulse chiacchiere dell'ottimismo. Si sa, alla fine moriranno tutti. Per bella che sia la difesa in tutto il resto, come si esprime a un depresso Pascal, l'ultimo atto è il sangue. Vi ho letto un brano dal panegirico di Guy Debord, che così scriveva, insomma, erano considerazioni che riguardavano i vari suoi interessi della sua vita, e ha sempre avuto una particolare passione per la guerra, per diciamo la strategia, la tattica e le teorie, insomma, che riguardano la battaglia, il conflitto, la guerra, eccetera, eccetera. Noi ci spostiamo però non di molto, nel senso che la più o meno la il Côté, ecco, la il settore, diciamo, di riferimento è sempre un po' quello del situazionismo, dell'autonomia coniugata, insomma, oltre Alpe. Con questo questa opera, che si intitola Il mondo come progetto Manhattan, dai laboratori nucleari alla guerra generalizzata alla vita, ed era appunto uscita la traduzione italiana circa un anno fa, circa due anni fa, 2023, e l'autore di cui abbiamo già parlato puntate precedenti è Jean-Marc Royer. Perché ci avviciniamo appunto a questo tema della guerra? Ecco, io ho voluto partire da Debord perché è vero, cioè è un dato di fatto che la guerra è sempre esistita, no? Diciamo, da quando esistono le civiltà cosiddette, e per limitarci alla storia, ecco, non andare oltre, e sono sempre stati, hanno sempre, diciamo, questo fenomeno, la guerra ha sempre avuto una corrispondenza a un massacro, diciamo, e senza esito inoltre, no? Come ha ben così ha cercato di tratteggiare in quel brano lì, no? Debord. E noi però passiamo a questa analisi di Royer, che appunto è intitolata Il mondo come progetto Manhattan, e quindi riguarda tutto quello che ha portato alla costruzione e al bombardamento, alla costruzione della bomba atomica e al bombardamento su Hiroshima e Nagasaki. Perché la spina dorsale di questo saggio è tra l'altro la parte centrale, che si intitola 15 tesi su quanto poco futuro è rimasto nel mondo dove viviamo. Noi ovviamente non possiamo passare in rassegna tutte le 15 tesi, però noi veramente è un invito a provare a confrontarsi con questa opera, nel senso che ecco, per concludere quello che il primo ragionamento che cercavo di fare, restringendo il panorama, diciamo, delle guerre dell'umanità, c'è stata una svolta che corrisponde più o meno alla comparsa del metodo scientifico in prima battuta, e diciamo come un fiume carsico poi ha portato a un altro fenomeno parallelo, che è stato l'affermarsi del capitalismo. Il terzo grado di questo processo è il dominio degli stati con i loro apparati, diciamo, modernamente intesi. Quindi al 1850 i giochi sono fatti. La tesi appunto di questo saggio è dal 1850 al 1945, quindi Auschwitz e Hiroshima sono la svolta, diciamo, il punto di arrivo di questa svolta, che è appunto una grossa svolta nella civiltà umana. Lui addirittura propone di una nuova temporizzazione, diciamo, e propone anche un titolo a questa era, che sarebbe l'era del rovesciamento della civiltà, e che corrisponde a una radicale disumanizzazione di un fenomeno che è appunto inestricabilmente legato all'umanità, alla vita umana, che è la morte, no? Quindi viene disumanizzata la morte, viene tutta una serie di corollari a questa svolta, che è proprio, ecco, arriviamo veramente vicini a quello che andremo a vedere, trova una prima manifestazione proprio, diciamo, chiara manifestazione con la cosiddetta Grande Guerra, quindi quella che si svolge dal 1914 al 1918 e che corrisponde al crollo di una serie di autolimitazioni che le guerre precedenti si ponevano, quantomeno, no? Almeno quelle, diciamo, del secolo precedente, del XIX, fino al XIX secolo. Crollano queste autolimitazioni che le parti in conflitto si davano e davano anche come naturali, come scontate, non in discussione. Queste, in seguito a una serie di colpi che arrivano dai fenomeni che ho nominato prima, appunto, che sono appunto il metodo scientifico, la comparsa dell'industria, la comparsa del capitalismo e non ultimo, come si chiama, è lo Stato-nazione modernamente inteso. E direi che possiamo fare una pausa. Eccoci qua. Quindi andiamo al testo, secondo me. Certo, la guerra è sempre in varia misura l'occasione di un profondo turbamento sociale. Autorizza la violazione collettiva del tabù fondante della vita in società, non uccidere. Inoltre, l'oggetto dei protocolli di dichiarazione di guerra è quello di sollevare temporaneamente questo tabù sotto la responsabilità dello Stato, della nazione, della patria, in breve del grande altro. Ma ciò che accade dal 1914 in poi fu di tutt'altra essenza e di tutt'altra portata. Non solo la morte industriale ridusse il soldato a, di fatto, non essere più considerato come essere umano, ma di fronte all'implacabile fuoco industriale le sue ragioni per combattere svanirono. In queste condizioni ogni razionalità sul campo di battaglia fu rapidamente liquidata. Anche lo status della morte in Occidente cambiò. La stragrande maggioranza dei membri della società di allora si dovette confrontare con essa in un modo o nell'altro. Si stima che i 2/3 o addirittura i 3/4 della società francese abbiano avuto a che fare con la morte in varie forme violente, con conseguenti insormontabili difficoltà nell'elaborazione del lutto. Un'elaborazione spesso irraggiungibile per i genitori e i parenti delle giovani reclute uccise massicciamente al fronte, a volte nei primi giorni di combattimento, Oltre alla difficoltà di dare un significato intelligibile a questa guerra totale, termoindustriale, i 4 anni di barbarie hanno scosso profondamente la psiche dei combattenti, delle loro famiglie e di coloro che li circondavano. In effetti, l'intero corpo sociale si è trovato di fronte al lutto più crudele, quello della perdita dei propri figli, che portava a un'inversione dell'ordine delle generazioni. Di fronte alla morte costituiva una di cui di fronte alla morte costituiva una prova insopportabile. Da un tale lutto non ci si riprende mai del tutto, la vita viene divorata dall'interno, ci si sente in colpa per essere ancora vivi, come molti dicevano, al punto che quando arrivava il momento di tornare a casa si partiva col cuore pesante, perché il lutto di un figlio morto è semplicemente impossibile da sostenere. L'aspetto peggiore è che questi figli, investiti di tutte le aspirazioni di ascesa sociale che la Repubblica, il progresso, la scienza e l'industria avevano suscitato in loro, scomparvero sui campi di battaglia in un inferno disumanizzante che era il prodotto di questa promettente modernità. La mattanza avvenne in un periodo di transizione demografica e soprattutto di profonda mutazione sociale. Nel momento in cui il progressismo repubblicano si affidava alla triplice alleanza per far nascere una speranza laica, portava i suoi figli al fronte e li decimava. Nel momento in cui i contadini venivano spinti a abbandonare le loro terre per ingrossare le file dei proletari urbanizzati, essi venivano arruolati per difendere la terra, il suolo della patria, la gleba degli antenati nel fango delle trincee. Ingiunzioni tristemente, radicalmente paradossali, le cui conseguenze umane ed ecologiche saranno terribili. Poiché i corpi dei soldati deceduti o i loro resti fatti a pezzi furono per la maggior parte lasciati sui campi di battaglia, la pratica delle cerimonie funebri tradizionali divenne gradualmente impossibile, seminando altre rovine, altrettanto profonde, nelle coscienze delle persone, poiché il rispetto dovuto ai morti è uno dei tratti specifici dell'umanità. È comprensibile in queste condizioni che fosse impossibile elaborare il lutto e che l'intero corpo sociale non avesse altra soluzione che quella di sprofondare in una profonda negazione della morte stessa. Il periodo tra le due guerre, la prima delle quali fu per molti versi anticipatrice della barbarie della seconda, fu solo un interoceano di dolore, un eccezionale intercataclisma. È stata una parentesi breve e talvolta devastante in cui si è inaugurata un'altra forma di guerra sociale, economica e politica. Le generazioni del periodo tra le due guerre percepirono solo in seguito la cultura della violenza derivante dalla Grande Guerra che aveva appena contaminato il mondo, così come quelle di Hiroshima avrebbero capito solo molto tempo dopo, il 6 agosto 1945, che gli effetti fisici, psicologici, politici a lungo termine della bomba si sarebbero rivelati infinitamente più distruttivi della sua immediata potenza devastatrice. Il 1914-18 fu la concretizzazione dal vivo, su scala continentale e per più di 4 anni, di una disumanità che era in atto dalla metà del secolo precedente e che andava ben oltre la semplice brutalizzazione morale. Questa morte si impose come una produzione industriale di massa, di cui i soldati erano contemporaneamente produttori e prodotti. Divenne anonima e insensata, per così dire proletarizzata, rendendo obsoleti i rituali essenziali di elaborazione del lutto. I soldati morivano in condizioni atroci, molto spesso fatti a pezzi, i loro resti abbandonati sui campi di battaglia, in condizioni per le quali tutte le procedure di preparazione al lutto erano soppresse, così come i riti che di solito accompagnano i primi momenti della perdita. E questi aspetti, insomma, arrivare a toccare questi aspetti era un altro modo di sfidare l'essenza dell'umanità. Comprendere e integrare tutti questi aspetti significa iniziare a cogliere una delle cause del crollo che si manifesterà in modo rapido, violento, generalizzato tra le due guerre, cioè solo 2 decenni dopo l'imposizione della civiltà capitalista all'Occidente alla fine del XIX secolo. Ecco, Diciamo così, è molto esteso il tema che viene sviscerato in questo mondo come progetto Manhattan, però è importante perché, a differenza di analisi precedenti magari così apocalittiche, oltre a di Bohr mi viene in mente anche di, però un altro paio di maniche, diciamo così, anche Apocalisse e Rivoluzione di Cesarano, e che hanno una, come posso dire, una, forse un approccio un po' più, passatemi il termine, metafisico. Qui c'è un tentativo, secondo me, questo Royer è più, non è più semplice, ecco, mette in campo tante altre cose, ma arriva a dei risultati, cioè ha un'idea, secondo me, più manipolabile, ecco, più può essere più, ecco, può essere messa in opera più, in maniera più immediata. E cioè, appunto, collegare tutti questi fenomeni, come ho detto prima, ecco, questo scenario apocalittico ha delle, anche ad una datazione, diciamo così, storica, che è, come l'ho detta io adesso, è una scemenza, però dà un'impostazione, una possibilità di leggere, ecco, tante cose in una prospettiva, appunto, che va, per cui si esce, ecco, dalla dimensione metafisica, dall'astrazione, dalla condensazione concettuale, si esce, si entra in concreto e si leggono i fenomeni anche quotidiani, e al di là adesso del 4 novembre, no? Voglio dire, è un libro che si ha, la parte iniziale è praticamente un dossier su come è stato negato il crimine, proprio il crimine che è stato compiuto a Hiroshima e Nagasaki è un crimine, ma le nazioni vincitrici, gli stati vincitori della seconda guerra mondiale, hanno preteso e ottenuto che tutti potevano essere accusati, appunto, di crimini contro l'umanità, tranne loro, nel pianeta Terra, no? Quindi hanno diciamo, hanno dato questa svolta una dimostrazione di potenza, di capacità di sottomettere la natura addirittura, no? Quindi hanno seminato il terrore ovunque, no? Ma lo hanno allo stesso tempo anche completamente mistificato, perché è passata nelle generazioni che ci hanno preceduto, a noi del 2025, è passata la narrazione dell'American Way of Life, cioè del benessere, della felicità, insomma, data dai beni di consumo, eccetera. E tutto questo che nel frattempo simultaneamente stava succedendo non è passato, però succedeva, ed è arrivato il momento, no, giustamente, di mettere le varie, insomma, i pezzi, incastrarli e come vanno incastrati, e dare una, ecco, arrivare a dare anche una lettura complessiva, ecco, di quello che è successo, in un modo rinnovato completamente, ecco, e questo permette non solo, appunto, di avere le idee chiare, ma anche di praticare anche una critica radicale, che altrimenti si rimane, come dice giustamente un'altra tesi di questo libro, si rimane impastoiati nel metodo scientifico, si moltiplicano, no, i dati, si moltiplicano le analisi quantitative e che è nient'altro che una delle strategie per negare le responsabilità e l'assenza di coscienza morale di tutto quello che è successo. Stiamo ascoltando i Nakam, band tedesca, da questo loro album datato 2015, mentre prima avevamo ascoltato tra i vari interventi la band statunitense i Resist dal loro album datato 1994. Comunque rimaniamo con i Nakam. La gente correva, al suono dei proiettili, partecipava alla mischia, senza chiedersi perché o come. I connazionali contro i francesi, tutto è chiaro, e avviene anche la disputa, e per una banalità, o se la lotta è tra ubriachi. Il colonizzatore francese allora è un nemico, e resistere al nemico è un dovere. In quei giorni, passando da una casa all'altra, ho capito il significato delle parole di Ibrahim Al-Shakal sulla resistenza contro il colonizzatore, sullo spirito nazionale, sull'entusiasmo, sull'iniziativa, sulla solidarietà, sull'odio negli occhi, nelle bocche e nelle mani, sull'odio per tutto ciò che è francese e per chiunque collabori con i francesi, siano essi proprietari terrieri ad Agas o popolani o deboli di spirito e di coscienza. Per quanto riguarda coloro che hanno combattuto in battaglie e sono sfuggiti all'arresto, sono stati onorati dalla città. E io ero tra loro. Io, colui, era stato in un mondo, si è trovato improvvisamente in un altro. Io, quello, era diventato un patriota, senza capire il significato di patriottismo, come l'avevano capito invece coloro che Dio aveva benedetto con coscienza e coraggio. Questo è un incipit di un articolo che tra un po' vi leggerò, e il motivo per cui vi leggerò questo articolo è perché vi voglio parlare di Basel Al-Raj. Basel Arraj è un martire morto nel 2017, palestinese, ammazzato dall'IDF, ma prima era stato arrestato dall'autorità palestinese. Arraj era un intellettuale impegnato, come lo chiamavano i palestinesi. È una persona che ha scritto, ha discusso tante idee, e come anche traspare nell'articolo che vi leggerò, lui era un palestinese insurrezionalista, era un palestinese che dissideva su tutto, anche dall'autorità palestinese, all'idea anche stessa di Stato, perché secondo lui lo Stato era contro la rivoluzione, la colonizzazione avviene in varie fasi e gli attributi di uno Stato avrebbero forzato in maniera ancora maggiormente, cioè l'idea di uno Stato palestinese avrebbe forzato degli attributi appartenenti al mondo liberale, non appartenenti al mondo arabo, che avrebbe sicuramente soffocato la rivoluzione. Arraj aveva da ridire su tutto dall'autorità palestinese, perché li paragonava a Yangtze, un esercito di 50.000 algerini che durante la rivoluzione loro collaboravano con i francesi per sopprimere le rivolte, per fare da spionaggio, per incentivare la cosa, cioè fratelli contro altri fratelli. Loro erano anche questo esercito si è macchiato di altri martiri. Lui paragonava l'autorità palestinese a questo esercito collaborazionista algerino che pagò col sangue. Arraj ha un'idea, in questo articolo che vi leggerò lui indaga sul legame tra la figura del fuorilegge e del banditto e la soggettività del rivoluzionario. Fa riferimento al mondo arabo, al mondo industrializzato del nord, però è bello come cerca di trovare una convergenza esistenziale a prescindere dalla cultura, dalla nazione, dalla situazione storica di queste soggettività. Lui cerca una convergenza su come il crimine, la sovversione dell'ordine, della legge, e di come l'epopea popolare, al di là dei tempi, al di là delle situazioni, riprende, quindi crea degli immaginari, delle narrazioni su queste figure che nascono anche spontaneamente per rivendicare una lotta esistenziale più estesa, che fa luce alla storia e a un'esigenza individuale e collettiva intrecciati insieme. E anche un altro motivo per cui leggo questo articolo è la difficoltà di trovare le traduzioni in inglese o in italiano di questi martiri, di queste persone che si sono impegnate con la vita, col sangue, con le armi, ma con l'intelletto nel cercare una rivoluzione e al di fuori della loro anche identità, cioè di come hanno cercato di donare questa cosa qua alla storia, a tutti i popoli, non solo alle loro esigenze particolari palestinesi. Ed è bello come lui trova delle convergenze nel mondo arabo con altri sistemi di oppressione. Ed è anche un po', non dico vergognoso, però che noi capiamo le citazioni quando sono del nostro mondo, però noi non capiamo il loro. Tendiamo, non volutamente, chi milita sta sempre attento, ma bisogna sempre fare memento su come a volte, anche involontariamente, tendiamo un orientalismo, una tendenza di proiettare su di loro delle conoscenze, degli stereotipi che vanno anche a condizionare loro e che loro cercano di liberarsi. Loro hanno una cultura enorme, estesa, anche se sta sotto l'ombrello dell'Islam, che comunque sia una religione, la religione è sempre al servizio del potere, però anche in questa nostra vita a volte volutamente o involutamente a pensare di proiettare quello che è stata la nostra religione con la religione dell'Islam. La religione dell'Islam ha comunque permesso un'enorme discussione all'interno del popolo, che comunque è diversa dalla discussione che ne ha fatto il potere, non solo quello occidentale, ma anche il potere stesso arabo. È sempre stata sempre tendesso a voler appunto discutere e di quello nella ricerca individuale di Dio, della verità e della ricerca anche di una rivoluzione, di una rivalsa, che è soprattutto quello che ne fa soprattutto il popolo. Però adesso lascio parola ad Arash. Nelle letterature che esaminano la storia rivoluzionaria dei popoli ricorrono alcuni individui eccezionali e divisi che fondano la rivoluzione con l'eroismo, il crimine e la violazione della legge, con la tradizione e i costumi. I racconti delle loro vite sono spesso simili in termini di origine, circostanze, traiettorie e conclusione. Soprattutto sono simili nel modo in cui vengono accolti. In tutti questi casi, l'opinione pubblica è divisa su come trattare questi racconti. Alcuni considerano questi individui come piccoli criminali e fuorilegge, mentre altri li vedono come eroi. Gli arabi conoscevano questo fenomeno da molto prima dell'Islam. In questa era rappresentata dai gruppi di vagabondi noti come Salaik, il più famoso dei quali era Urwa bin al-Awad, soprannominato il principe dei Salaik. Questi gruppi di uomini che rompevano con le consuetudini e le tradizioni, confrontandosi con i sistemi economici, sociali e politici delle loro tribù, venivano evitati dalla tribù stessa o se ne allontanavano. Quando i tempi duri si abbattevano sugli abitanti della tribù, questi si riunivano intorno ai Salaik, che si occupavano dei loro bisogni. Quando la normalità veniva ripristinata, gli abitanti della tribù ripudiavano nuovamente i Salaik e li abbandonavano. La somiglianza tra il rivoluzionario e il fuorilegge consiste nella loro decisione di deviare dai sistemi e dalle leggi accettate. Il passaggio del fuorilegge dall'azione nazionale o politica, organizzata o spontanea, è agevole. Non è compromesso dalle stesse complessità delle transizioni dei membri della borghesia, per esempio, che richiedono il rifiuto della loro classe sociale e dei loro rituali, dei costumi e delle comodità materiali che esse offre. Il fuorilegge, grazie alla sua esperienza nel campo, dei furti e delle frodi, padroneggia modi di operare al di fuori della legge, acquisisce competenze per affrontare l'arresto e le indagini e realizza operazioni che richiedono un alto grado di pianificazione preventiva. Queste esperienze sono simili alla loro logica, pratica all'azione di resistenza, anche se gli obiettivi finali sono diversi. Franz Fanon era attento a questa sovrapposizione e scrive quanto segue se queste figure fuorilegge nei dannati della terra. Allo stesso modo, il popolo si serve di alcuni episodi nella vita della comunità per tenersi pronto per mantenere vivo il proprio ardore rivoluzionario. Per esempio il gangster che blocca per giorni e giorni la polizia che si è messa sulle sue tracce, o che muore in un combattimento singolo dopo aver ucciso 4 o 5 poliziotti e che si suicida per non rilevare i suoi complici. Questi tipi illuminano la strada al popolo, formano gli schemi per l'azione e diventano eroi. Ovviamente è fatto sprecato dire che questo e quell'altro eroe è un ladro, una mascalzone o un villano. Se l'atto per cui viene perseguitato dalle autorità coloniali è un atto diretto esclusivamente contro una persona o una proprietà coloniale, la linea di demarcazione è definita e manifesta. Come segno cruciale del suo attaccamento e amore per la comunità, del suo senso di giustizia e dell'acquisizione di strumenti analitici che gli hanno fornito una visione lucida e seria, il martire Sheikh Izz ad-Din al-Qassan ha detto dei fuorilegge: lasciateli fare il loro lavoro, perché c'è una virilità in quel lavoro che un giorno trasformeremo in lotta santa. E finché il colonizzatore vuole uccidere le nostre anime, queste persone sono più vicine a Dio e all'amore della lotta santa di coloro che si sottomettono. Lo storico marxista Erich G. Obsawan, scusate se, se sbaglio il nome, ha compreso il significato del fuorilegge o bandito sociale, le cui peculiarità contraddicono la logica del diritto dei moderni stati liberali, che si basa principalmente sul contratto sociale e sui diritti naturali dell'uomo alla proprietà, alla libertà e alla vita, come delineati da John Locke. Secondo questa concezione, il banditismo è un assalto alla proprietà privata, è un atto criminale nella terminologia dello Stato e delle classi colpite da tale atto criminale. Uno dei libri di Obsawan si basa su una lunga e mitologizzata storia di quello che egli definisce banditismo sociale, rintracciabile nell'immaginario popolare di varie società e incentrato sull'eroismo di ladri e banditi, come Robin Hood, come Rob Roy, MacGrog e Jesse James. Obsawan affronta il fenomeno attraverso il suo contesto sociale, in cui il ruolo sociale del fuorilegge e del ladro è quello della vendetta, soprattutto se froda o ruba a un membro delle classi dominanti e tiranniche della società. Obsawan definisce questo ladro il nobile rapinatore. In altri casi, come la mafia del Sud Italia, il fuorilegge rappresenta un'alternativa all'ordine sociale, dominante alle relazioni imposte dalla classe dominante attraverso la polizia e altre forze di oppressione e contenimento. Obsawan trova una somiglianza tra i banditi sociali e gli eroi rivoluzionari, come Che Guevara, Von Nguyen Chap, Ho Chi Minh in Vietnam, e nel contesto arabo-islamico, quelli come Abdul Karim al-Khattabi, Omar al-Mukhtar, Izz al-Din al-Qassan, Wadin Adan e altri. In molti casi i fuorilegge diventano figure di agitazione sociale, che persistono in uno stato di sottomissione, in quanto sono più capaci di esistere al di fuori del sistema che impone condizioni umilianti e vivi. Essi possiedono inoltre conoscenze sufficienti per vivere e sostenersi al di fuori del dominio della legge ingiusta. Impongono a loro stessi regole severe che organizzano il loro mondo con tradizioni giuste, garantendo all'essere umano la sua dignità e il diritto di vivere una vita dignitosa in cambio dell'adempimento dei propri doveri. Per esempio, se uno dei fuorilegge confessa alle autorità o denuncia uno dei suoi compagni, questo è sufficiente a porre fine alla sua traiettoria con il gruppo. Poiché i fuorilegge si trovano alla base della piramide sociale, il loro mondo è esplicito. Non ci lasciano ingannare dai trucchi e dalle bugie dell'autorità, ne sono soggetti ai suoi discorsi, ai suoi strumenti di mediazione e alla fabbricazione dell'opinione pubblica. Il mondo in cui si trovano è un mondo incontaminato nella sua realtà, con tutte le sue difficoltà, miserie, povertà e ingiustizie. Si scopre così che hanno la massima considerazione della giustizia e che sono i più sprezzanti della sua assenza. È importante ricordare l'enorme connessione tra qualsiasi movimento o rivoluzione occulta e il mondo sotterraneo che esiste al di fuori della legge. La legge è uno strumento di normalizzazione e di egemonia nelle mani del potere, che si riserva il diritto di intraprenderla o di rivederla. Pertanto i movimenti rivoluzionari e clandestini esistono al pari con la malavita fuori legge. I movimenti rivoluzionari si sono sempre affidati a questa malavita per acquisire conoscenze pratiche, logistica e armi, nonché tattiche di manovra e metodi per ottenere finanziamenti al fine di affrontare il nemico. Le figure di cui parleremo provengono tutte dalle classi sociali più povere e oppresse, che sono sottoposte al massimo grado di persecuzione. La maggior parte delle loro storie è accomunata da circostanze simili che portano alla creazione di una nuova umanità e a momenti di nascita e trasformazione. Stiamo parlando di individui la cui coscienza è formata dall'esperienza materiale e la cui inizia col rifiuto da parte della società. Tuttavia, essi diventano eroi. Le donne cantano i loro matrimoni e gli uomini acclamano i loro nomi e le loro virtù, mentre diventano modelli di eroismo e di ribellione. Stiamo parlando di individui che non sono altro che rivoluzionari fin dal primo momento. Nelle loro qualità, virtù e composizione psicologica sono caratterizzati da coraggio, ribellione, audacia e intelligenza. Non si lasciano ingannare dagli orpelli e non sono mai addomesticati. Avete sentito parlare di Ibrahim, il ragazzo che fu ucciso nel 1913, colui che amava Fatima, figlia del feudatario, e per questo fu inseguito e perseguitato? si rese conto della portata dell'ingiustizia e dell'oppressione imposta dallo Stato e dai feudatari ai contadini e ai poveri. Così formò una banda che derubava i ricchi e riconosceva ai poveri i loro diritti. Quel ragazzo, Eymouk Ibrahim, uno dei più famosi dissidenti dell'impero ottomano, che divenne poi una delle icone più note dell'epica popolare. Oggi si canta le sue gesta e le nonne raccontano la sua storia ai bambini, per inculcare loro i valori più alti, approfondendo i concetti di lotta, libertà, giustizia, uguaglianza e amore. Hakim Ghul assomiglia in qualche modo all'eroe popolare inglese Robin Hood o al principe di Salik, Urwain bin Alward, ma assomiglia soprattutto al rivoluzionario scozzese William Wallace, raffigurato nel film Braveheart, nel cui caso anche l'amore fu il motore della rivoluzione. E così come la vita di Hakim Ghul ha ispirato la gente, anche la sua morte ha ispirato la gente. L'immagine di lui morto, che culla il suo fucile, Martini Henry, fece sì che tutti i giovani dell'impero ottomano desiderassero quello stesso fucile. Ancora oggi le nostre canzoni, i nostri canti popolari in Palestina ricordano Hakim Ghul attraverso quel fucile Martini. Queste figure fuorilegge si distinguono dai rivoluzionari solo per la coscienza e la missione politica. Questi ultimi, la cui base sociale e i progetti politici sono creati dalle condizioni materiali, diventano la speranza e il modello di una nazione. Nel suo libro Guerrilla Warfare, Guevara ha notato questa grande somiglianza quando ha detto: il guerrigliero conta sul pieno appoggio della popolazione locale, è una condizione indispensabile. E questo si vede chiaramente considerando il caso delle bande di banditi che operano in una regione. Esse hanno molte caratteristiche di un esercito di guerriglieri: l'omogeneità, il rispetto per il capo, il coraggio, la conoscenza del terrore. Secondo Guevara, se il popolo si riunisce attorno a queste bande, queste si trasformano in rivoluzionari. Lo dimostra la storia del militante iracheno martire Suwayda Ebb, contadino ucciso dalle bande assoldate dai signori feudatali ad Al-Awar, vicino al fiume Al-Kala, in Iraq, nel 1959. Fu il primo martire dopo la rivoluzione del 14 luglio 1958, commemorato da Mustafa Al-Awam nella poesia Suwayda Ebb, cantata da Sami Kamal. Sebbene il popolo abbia accolto queste persone come icone ed eroi che illuminano il cammino, lo Stato e la legge non sono stati in grado di spiegare la logica in atto. Anche quando le autorità hanno usato queste icone come miti nei loro progetti di statualità, hanno continuato a considerarle fuori legge. A questo proposito possiamo fare riferimento all'epopea popolare dell'eroe egiziano, il martire Adam al-Sharqi, la cui memoria gli egiziani commemorano ancora oggi nelle loro canzoni popolari e sulla cui vita sono state realizzate due serie televisive. La sua storia è stata introdotta durante l'era di Nasser, mentre la marea del panarabismo socialista travolgeva tutti, ed è stato girato un film della sua vita, interpretato da Abdullah Gait e diretto da Osama el-Din Mustafa, con Abdel Halim Assef che cantava il Mawil e le canzoni popolari del film. Eppure gli abiti di Adam al-Sharqi, ucciso nel 1912 a 23 anni, sono ancora esposti nella sezione notevoli criminali del Museo Nazionale della Polizia. Il martire e teorico rivoluzionario Malcolm X è uno degli esempi più famosi di fuorilegge rivoluzionario. Nato da una piccola e povera famiglia nera, crebbe sotto un sistema razzista che nessuna persona sana poteva accettare. Nel 1913, quando aveva 6 anni, suo padre fu ucciso da un gruppo di suprematisti bianchi. Anche 4 dei suoi zii furono uccisi per mano dei bianchi, senza processo. Sua madre fu ricoverata in ospedale psichiatrico. La presenza di Malcolm in una scuola per bianchi fu sufficiente a fargli comprendere la portata dell'ingiustizia subita dai neri, anche alla tenera età di 6 anni. I semi della ribellione e della rivoluzione furono piantati in lui fin da piccolo. Imparò a gridare di rabbia, come il personaggio di Mufid al-Mawe nel romanzo di Anna Mina, La fine di un uomo coraggioso. Malcolm X ha detto di questa frase della sua vita: Così presto nella mia vita ho imparato che se vuoi qualcosa devi fare un po' di rumore. Quando raggiunse la pubertà, queste proteste assunsero una forma più violenta e ribelle. Intraprese furti e rapine, per questo fu incarcerato, continuando gli studi liceali in carcere. In seguito lasciò il carcere per Boston e New York, dove si tuffò in un mondo di violenza, crimine e droga, prima di tornare in prigione. Il suo momento di rinascita è avvenuto in carcere ed è emerso un nuovo essere umano. La sua coscienza dell'ingiustizia di cui sono vittime le persone nere negli Stati Uniti si è ampliata. La crudeltà della vita in carcere gli diede la conoscenza e l'arte di interpretare i comportamenti devianti della società, come fecero Fanon e Ali Sharit, e non fanno le persone poco istruite che li considerano patologie o mutazioni genetiche. Malcolm X ha percorso il suo cammino per diventare uno dei più influenti leader neri, partecipando anche alle lotte di altre nazioni, come la rivoluzione algerina. La sua era una mente critica che non poteva accettare bugie, inganni e ciarlanterie. Sosteneva il pensiero e la teoria dovevano essere sottoposti alle condizioni sociali. A quel punto iniziò la caccia alla sua vita e furono compiuti diversi attentati contro di lui, finché uno andò a segno il 21 febbraio 1965. Quando il martire algerino Ali Lapoid, nato nel 1930, conobbe l'ingiustizia, la povertà, lo sfruttamento nelle fattorie coloniali nella sua città di Miliana, in Algeria, poi si trasferì ad Algeri, la capitale, per praticare il pugilato, uscendo presto dalla legge coloniale e finendo in prigione. Lì è rinato. Quanti eroi nazionali sono nati in prigione? Anche Abu Gilda, Hal Armit, Farid al-Sassa e Abu Kabari sono nati in prigione e sono diventati simboli nazionali. La Point, quel nome che si è legato al nostro eroe, l'eroe della battaglia della Kashba, l'arena su cui lui, Ali, la Point, esercitava il suo controllo prima della sua rinascita, colui che ha condotto diverse operazioni contro l'occupazione francese ad Algeri, aiutando la rivoluzione nel suo spostamento dalle montagne alle città. Il 9 ottobre 1957 i francesi fecero saltare in aria il suo nascondiglio e fu martirizzato insieme ad altri eroi. La giovane Asiba Ben Wil, Talib Abdel Ram e il bambino Omar, che divenne anche uno dei tanti simboli della rivoluzione. E qui citiamo l'eroe martire Hussein Ali, proveniente dai Saqqars arabi nella valle del Bezian, è uno dei più importanti esempi palestinesi. Ali Ali uccise un cugino che gli aveva fatto un'ingiustizia. La maggior parte degli esempi palestinesi simili ad Hussein Ali iniziano le loro storie in uno scontro con l'autorità, partendo dal basso della piramide, come il Mukattar, e poi il signore feudale, e infine la borghesia, che assume il volto del colonizzatore e del suo comprador. Inseguito dalle autorità britanniche, si diede alla clandestinità, fino alla grande rivolta del 1936, diventando uno dei leader e dei simboli più importanti. Hussein fu poi martirizzato in una dura battaglia con le forze del nemico britannico. È stato immortalato dal poeta Tawhik Ziyad nella sua epopea Saran el Kasdot, cantata dal gruppo Asquin Queen. L'inizio di ogni rivoluzione è un'uscita dall'ordine sociale che il potere ha sancito in nome della legge, della stabilità, dell'interesse pubblico e del bene superiore. Ogni autorità sociale ed economica si interseca necessariamente con l'autorità politica e ne è un'estensione. È così che queste figure eroiche possono essere comprese e apprezzate dal grande pubblico, che viene sopraffatto, come per istinto. Da qui si comprende l'ostilità dell'autorità sociale, economica e politica nei confronti di queste figure e l'uso della legge come strumento per offuscarne l'immagine e criminalizzarle. Comprendiamo quindi anche il passaggio graduale dal fuorilegge al rivoluzionario, colui che resiste. Sono le mêmes chansons avec les mêmes refrains. On parlait tous d'amour, mais ça ne vaut rien. Sì, un saluto anche da parte mia. Ricordo che siamo sempre su Zardins Magnetics, che appunto Onde Furlane è la radio che ci ospita. E così, negli ultimi minuti che ci restano della trasmissione, io volevo ricordare la vicenda di Anan, Ali e Mansour, i tre compagni palestinesi inquisiti, uno dei quali, Anan, è anche carcerato, inquisiti appunto per accusati di terrorismo internazionale. E, perché ci sono alcuni aggiornamenti sulla situazione. Infatti c'è stata un'udienza il 31 ottobre, ricordo che il 30 ottobre è stato organizzato un presidio solidale a Trieste davanti alla procura della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, proprio per così mettere a fuoco la situazione di questi compagni palestinesi e sì, evidenziare insomma un po' le similitudini che ci sono con sì, relativamente a tutti i trattamenti per le accuse di terrorismo, e anche per evidenziare la complicità tra lo Stato di Israele e lo Stato italiano. Ricordiamo infatti che per su Anan pendeva appunto una richiesta di estradizione da parte dello Stato di Israele, e questa richiesta è stata sì, non è stata accettata dallo Stato italiano, però contemporaneamente lo Stato italiano ha accusato Anan e gli altri due compagni di appunto terrorismo internazionale. Allora, brevemente ricordo che in settembre c'è stato questo trasferimento di Anan da Terni a Melfi dopo circa 2 anni di detenzione preventiva in alta sorveglianza a Terni appunto. Questo trasferimento è stato sicuramente punitivo, cioè volto a così interrompere i legami solidali all'interno delle sezioni della sezione di alta sicurezza con gli altri compagni detenuti, e in generale anche per interrompere la solidarietà portata dall'esterno. C'erano stati dei presidi solidali a Terni. Nonostante questo trasferimento a Melfi in Basilicata, c'è stato lo stesso un'attivazione immediata insomma anche lì in Basilicata appunto, e quindi presidi e si è creata una rete di appoggio locale. Rispetto all'udienza del 31 ottobre, i compagni dell'Aquila ci segnalano che ci sono delle novità, insomma c'è stata un po' una svolta, nel senso che la difesa ha portato la traduzione dall'ebraico di alcuni documenti dell'IDF, e da queste traduzioni emerge che un toponimo, Avnei Efez, che è insomma di una località, si riferisce sia a un insediamento di coloni in Cisgiordania sia ad una installazione militare dell'esercito israeliano. E questo è un fatto importante, perché appunto l'accusa l'accusa più importante diciamo di terrorismo internazionale si baserebbe su questo fatto, cioè che Anan, Ali e Mansour avrebbero pianificato dall'Italia un attacco appunto all'insediamento civile di Avnei Efez, che poi civile tra virgolette perché appunto è un insediamento di coloni. E però, essendoci questo doppio significato del toponimo, insomma una strada diciamo rimane aperta, in quanto il diritto internazionale, quindi anche dal punto di vista giuridico, perché il diritto internazionale diciamo che sanziona in ogni caso l'attacco ai civili, ma invece riconosce le azioni di resistenza contro l'occupante, cioè le azioni di resistenza contro l'occupante sono ritenute legittime anche dal diritto internazionale. E contemporaneamente questa questione di questa doppia identità, diciamo, di questo toponimo svela questa, beh, intanto questo, il fatto che il diritto internazionale stesso diciamo sta dalla parte di Israele, nel senso che comunque questa questione di lana caprina, insomma, di definire l'insediamento dei coloni come un obiettivo civile è una roba che non sta in piedi, perché ricordiamo che appunto i coloni sono, si può dire, la prima linea dell'occupazione militare, sono dei gruppi armati fino ai denti dall'esercito e dallo Stato, e appunto servono a fare terra bruciata, insomma, nei confronti dei nativi per insediarsi, quindi non sono civili affatto. Ma oltre a questo discorso qua, quindi di questa pecca del diritto internazionale, c'è anche un fatto molto grave, cioè l'accusa ha chiamato per la prossima udienza, che sarà il 21 novembre, a testimoniare appunto per l'accusa l'ambasciatore di Israele in Italia. Quindi al processo Israele proprio entra in aula, no? Quindi questa è una roba grave, e che dimostra appunto la sottananza, come si dice in friulano, cioè l'asservimento dell'Italia a Israele e la stretta collaborazione tra i due stati. E questa collaborazione si realizza, diciamo, principalmente nelle azioni di repressione, da un lato verso la criminalizzazione dei movimenti a favore della Palestina, della resistenza palestinese, che ormai insomma sta avanzando anche nello Stato italiano, similmente a quello che è già successo in Germania e in Inghilterra, e contemporaneamente l'attacco ai militanti della diaspora palestinese e ai membri della resistenza. In pratica, insomma, Israele e in questo caso l'Italia vogliono fare terra bruciata anche rispetto alle possibilità di testimonianza e di azione dei resistenti palestinesi anche all'estero, proprio perché finché c'è un finché insomma esiste una esistono dei palestinesi combattenti da tutti i punti di vista, fieri e combattivi, e il progetto coloniale di Israele, che rimane incompiuto grazie proprio a questa resistenza, è in pericolo, insomma, in quanto progetto coloniale. E alla luce di tutte queste nuove, insomma, le compagne e compagni del Solidali e dell'Aquila invitano all'udienza specifica del 21 novembre, udienza nella quale appunto ci sarà la convocazione dell'ambasciatore di Israele, invitano ad andare, cioè lanciano una mobilitazione nazionale, invitano ad andare tutti quelli che si può, insomma, all'Aquila, appunto, per fare una presenza, insomma, forte di appoggio ad Anan Ali e Mansur, e di ribellione contro, insomma, questo processo farsa, ma anche nello stesso tempo processo esemplare per mettere in atto la repressione. E niente, poi insomma parleremo di nuovo chiaramente di questa faccenda, ma era giusto così dare questi aggiornamenti, da un lato, diciamo, interessanti per quanto riguarda appunto quello che dicevo prima della difesa, e dall'altro lato inquietanti anche per queste svolte. E mi sembra che siamo, se la miopia non mi fa sbagliare, siamo quasi agli sgoccioli, e quindi saluto e do la parola alla regia. 私の方が好きや何遍私の方が好きやブロークンハートでダブやらへん何遍 べ私を殺す気や、なべ私を殺す気や、なべ私を殺す気や。 Bene, come è stato detto, siamo proprio agli sgoccioli con questo programma che è Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine e anche oggi appunto 6 novembre 2025. Intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band giapponese da un loro album datato 2019, loro se non erro sono di Kyoto e si chiamano Otoboke Beaver ed è una band formazione completamente al femminile. Comunque, dato che siamo al termine, come di consueto vi leggo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica, scrivete alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure se volete scriverci in forma cartacea, scrivete intestate ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste 34121. Ricordo che questa trasmissione appunto che è Zardins Magnetics, che tra l'altro non ho prima detto che funziona grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, e come detto potete riascoltare tutta questa trasmissione ma anche quella delle volte scorse andando sul blog zardinsmagnetixradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Bene, l'appuntamento è il prossimo giovedì sempre dalle ore 20 e salutiamo anche chi ci ascolta domani dalle ore 17 in replica sulla web radio Radiazione. Ciao a tutti e vi lascio con queste Otoboke Beaver. ¡Mira, nunca os te sale!